Salva Danaio. Buongiorno e benvenuti a questa puntata speciale di Salva Danaio, in cui vi riproporremo il meglio delle puntate andate in onda nei mesi scorsi. Oggi dedichiamo la prima parte della trasmissione alla figura dell'agente immobiliare, protagonista della puntata andata in onda lo scorso 24 marzo. Ospiti di Deborah Rosciani, Paolo Righi, presidente nazionale FIAIP, e Giuseppe Campisciano, vicepresidente di FIMA a Milano. La ricerca della casa dei propri sogni richiede tempo e impegno, e il discorso non cambia quando si prende la decisione di vendere la propria abitazione. Per affrontare questi passaggi c'è chi si avventura in un metodo fai da te, affrontando percorsi non sempre immediati e privi di insidie, e chi si avvale della professionalità delle agenzie immobiliari e dei mediatori, affidando loro tutti i passaggi che porteranno al tanto atteso momento del rogito. Il settore della mediazione, che pure ha avvertito inevitabilmente il contraccolpo della crisi del mercato immobiliare degli ultimi anni, resta insomma un punto di riferimento, ma al tempo stesso è percepito come un ambito delicato, i cui operatori devono essere in grado di conquistare e meritare la fiducia dei clienti. Affidarsi ad un agente comporta il pagamento di una commissione e la stipula di mandati di vendita e di mediazione. L'agente, oltre a far incontrare domanda e offerta, deve essere in grado di fornire al cliente la documentazione inerente alla proprietà e alla regolarità dell'immobile in vendita. Dalle planimetrie catastali alla copia del rogito precedente, dal certificato di conformità degli impianti all'estratto conto condominiale. Dal canto suo, il cliente non può limitarsi a osservare dall'esterno, ma deve mantenersi sempre informato sugli sviluppi della compravendita. Per evitare brutte sorprese, è bene infatti che compratore e venditore abbiano ben chiari i propri diritti e doveri, ponendo le basi per un rapporto di fiducia reciproca in cui il mediatore metta a disposizione la sua professionalità, curando gli interessi di entrambe le parti. Allora, Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, quante volte ve lo siete sentiti dire? E adesso, insomma, questa bolla immobiliare nel nostro paese, se possiamo definirla tale, non lo so, sicuramente non è tale come quella che è esplosa in Spagna e in altri paesi appunto del nostro continente, in Gran Bretagna, in America, figuriamoci. I prezzi sono stati molto alti anche qua, adesso si stanno ridimensionando, ma se voi aveste di fronte a voi, so, venditori più ragionevoli, forse i prezzi potrebbero ridursi ancora un po'. Certo, beh, intanto dobbiamo dire che l'agente immobiliare è terzo alle parti per legge e quindi non gonfia i prezzi, anzi per l'agente immobiliare per assurdo sarebbe più logico avere dei prezzi più bassi o si potrebbe agevola vendere, le vendite, certo. Si potrebbe vendere un di po' più di quindi più. Non siamo immobiliaristi, siamo agenti immobiliari che aiutano le parti. Da questo punto di vista diciamo che garantiamo, come è ben stato specificato nel servizio, quella che è la regolarità della compravendita nella fase precontrattuale. Insomma, volevo sentire anche Campisciano su questo punto, perché è un punto intorno al quale la categoria si muove con grande sensibilità. Campisciano. Ma intanto saluto il collega Righi, condivido la prima parte del suo intervento e poi c'è da dire che, come sempre, come in tutti i settori, i prezzi vengono fatti dalla domanda e dall'offerta, quindi la bolla immobiliare non è determinata dagli agenti, ma è stata determinata da un eccesso di domanda. È chiaro che nel momento in cui la domanda è alta i prezzi salgono, nel momento in cui, come in questi ultimi tre anni, la domanda è scesa fino a un 30-40% sulla totalità delle vendite effettuate nel nostro paese, i prezzi sono diminuiti. Mm-hmm. Quindi gli agenti immobiliari sono assolutamente estranei almeno a questo, almeno alla bolla relativa alla dimensione dei prezzi. Certo, non che quando ovviamente il mercato immobiliare, appunto come diceva, viaggiava in uno stato di salute ottimo qualche anno fa, è chiaro che anche l'agente immobiliare aveva tutto l'interesse affinché le trattative si concludessero ai prezzi di quel periodo, ma proprio perché appunto il mercato era in una condizione felice per cui tutto marciava serenamente. Adesso invece leggevo anche qualche considerazione che proprio le due categorie fanno, le principali associazioni, che sostengono che l'elemento determinante per la definitiva stabilizzazione del mercato nella fase attuale è proprio rappresentato dalle false aspettative di prezzo di gran parte dei venditori, tuttora ancorati ai livelli del 2006-2007. Righi, è così? Fate sì. Molta fatica a convincere i venditori che dovrebbero ulteriormente ridimensionare un po' le richieste? Oggi abbiamo un mercato molto frastagliato da questo punto di vista. vita, i proprietari hanno delle aspettative molto alte, dall'altra parte ci scontriamo con chi richiede di comprare un immobile che deve al problema di accedere al credito bancario, al problema proprio di contestualizzare la propria compravendita in termini economici, che offre meno. E questo incontro tra la domanda e l'offerta è molto difficile in questo momento. Infatti negli ultimi 2 anni le compravendite come numero di pezzi si sono ridotte di 200.000 unità. Mm-mm. Questo è un chiaro segnale. Noi stiamo cercando, come associazioni, con la FIMA, FIAIP, stiamo cercando proprio di spiegare ai cittadini che una richiesta eccessiva impedisce poi la fluidità del mercato. Certo, ecco, da questo punto di vista Campisciano dunque, per esempio, perché siccome non facciamo altro che come dire, guardare al fenomeno tanto con la voglia, quasi, lo dico anche dal punto di vista giornalistico, di trovare tutti i difetti possibili ed immaginabili dell'agente immobiliare, guardiamolo un po' anche dal punto di vista come avviene la vostra trattativa con un venditore che pretende assolutamente di fare un prezzo esagerato del proprio immobile, della vendita del proprio immobile. Ma guardi, intanto se mi permette vorrei solo fare un inciso, che dobbiamo anche fare una grossa differenziazione tra i prezzi che ci sono nelle grandi città come può essere Milano o nei luoghi di villeggiatura. Da quelli che sono ad esempio delle piccole città di provincia, dove i limiti di prezzo sono decisamente più bassi. Se in una città della provincia di Milano oggi si vende a 2.000 euro al metro quadro, è direi quasi un limite fisiologico, al di sotto del quale un costruttore non potrebbe vendere, perché ha dei costi tali per cui al di sotto di quella soglia venderebbe in perdita. È chiaro che in città dove in alcune zone, perché hanno un valore aggiunto soggettivo dell'immobile, Brera, tanto per fare il nome di una via che tutti conoscono, si vende a 10, 12 o 15 mila euro al metro, evidentemente lì i margini per una discesa ci sono. Come ci comportiamo, come dovremmo comportarci? Quello che io dico sempre, anche quando faccio corsi di formazione, è che l'agente immobiliare deve fare innanzitutto una stima corretta del valore dell'immobile. Se questa stima collima con quelle che sono le aspettative del cliente, bene. Se questa stima non collima perché il cliente venditore ha delle aspettative molto più alte, a volte sarebbe meglio dire un no all'incarico, esatto, e far infatti capire che il mercato non è quello, che quella è un'aspettativa sbagliata. Un grande atto di coraggio che qualche volta è anche difficile, ma poi tanto se la casa non si vende perché l'aspettativa è appunto assurda e irragionevole, e poi magari insomma ci si rinuncia più facilmente. Ci sono tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, gli agenti per prendersi il mandato a volte ti convincono che si può vendere anche ad un prezzo superiore, come in tutte le categorie ovviamente, anche lì Righi, ci sono quelli che non si comportano in maniera, non dico deontologicamente corretta, ma insomma questo capita. Questo è un uso scorretto, è una prassi quella di sovrastimare gli immobili, usata da una piccola percentuale di agenti immobiliari, ma che viene usata. Questo permette all'agente immobiliare di prendere l'incarico e quindi poi di disilludere pian piano il cliente, ma avendo diciamo in mano l'esclusiva per la vendita. E su questo punto consigliamo agli ascoltatori di rivolgersi alle associazioni, leggere i giornali. Oggi ormai, oppure di andare sul sito dell'Agenzia del Territorio, vi sono le quotazioni, oggi gli osservatori immobiliari sono tantissimi e quindi c'è la possibilità di conoscere, non dico il prezzo reale, certo, proprio di quell'immobile, però un sentiment del mercato in modo da poter capire se quella, esatto, perizia. Poi c'è sempre la componente personale, se noi quella casa la vogliamo a tutti i costi, la vogliamo individualmente sovrastimare perché la vogliamo assolutamente, questo poi è una colpa che non possiamo dare all'agente immobiliare, ci troviamo, sono tanti aspetti. Certo, ovviamente noi ci troviamo tante volte con dei clienti che ci dicono: guarda, io voglio vendere questa casa a questo prezzo, altrimenti non la vendo. Non la vendo, e vabbè, e quella è una scelta cosciente. Esatto, poi c'è invece quello che ovviamente ha fretta di vendere e chiaramente può dettare delle condizioni, è nella necessità di dare, imporre delle condizioni diverse. Allora, io vorrei anche che ci raccontaste magari qualche esperienza positiva, perché poi se questo mercato immobiliare porta a casa oltre 600.000 compravendite l'anno, Paolo Righi, presidente della, certo, FIAP, insomma evidentemente il mercato degli agenti il suo lavoro lo fa. Le esperienze positive sono tante, ma come al solito vengono poco portate alla luce. Quello che è importante però è, visto che siamo qui, diamo un'informazione al cittadino. Il cittadino ha la possibilità di controllare se l'agente immobiliare è veramente un agente immobiliare rivolgendosi alla Camera di Commercio e indagando all'ufficio Albi e Ruoli se questa persona ha i requisiti soggettivi. Un agente immobiliare per diventare tale deve fare un corso, deve superare un esame, deve avere i requisiti morali e soggettivi E un'altra cosa che la nostra legge ci dice è che l'agente immobiliare non può per legge commerciare in immobili. Ecco perché prima dicevamo l'agente immobiliare non fa l'immobiliarista. Allora andiamo alle domande degli ascoltatori alle quali poi risponderemo, oltre che con Paolo Righi anche, ve lo ripresento, Giuseppe Campisciano, vicepresidente di FIMA a Milano. Luca da Milano, allora buongiorno, è un collega dei miei due ospiti se non sbaglio. Buongiorno, intanto saluto tutti i presenti buongiorno. E anche gli ascoltatori. Ma io devo dire che lavoro da tanti anni in questo settore e mi occupo principalmente di cantieristica a Milano, quindi c'è una prima distinzione, cioè sul fatto che ci sono prezzi diversi ovviamente per la cantieristica e per l'usato. L'uovo ha ragione usato, il signore, sì, perché il signore che ha chiamato prima, uno dei due, ha detto giustamente che in Breda si riescono a vendere fino a 12-15 mila euro, però è ovvio che il costo vero dell'immobile può anche essere di un decimo per quello che ne sappiamo noi, quindi è un valore che invece il costo di costruzione del nuovo ha dei parametri che ovviamente non puoi cambiare perché il terreno costa tot, eccetera eccetera. Tra l'altro in questo periodo il terreno perde, diciamo, ha perso valore, ma le operazioni sono partite 3 anni fa. Questo vuol dire che uno ha già comprato, eccetera, certo, eccetera. Luca, ci racconti il suo approccio con la clientela adesso, a prescindere, diciamo, dalle qualità degli immobili che lei, che lei vende? Ma o intermedia? Allora, se devo essere contento di questo periodo, perché ovviamente non posso dire di essere contento che le cose vanno male o meno bene di prima, se posso essere contento di una cosa è che sicuramente la professionalità in questo momento esce fuori e tutti gli altri spariscono, perché ovviamente il cliente che viene da te l'unica cosa che vuole fare è cercare di risolvere un problema, ma se gliene crei l'hai perso per sempre. Quindi sono ben felice che non solo si sia ridotta la qualità, la quantità della clientela, perché poi tanti clienti prima magari venivano a vedere giusto per informarsi, adesso effettivamente il livello di necessità delle persone si è molto alzato. Questo vuol dire che vengono effettivamente perché hanno bisogno della casa e non per informarsi o per altri motivi. Benissimo. Quindi questo sicuramente sì. Quindi insomma è emerso un aspetto qualitativo sia nella professionalità appunto dei consulenti immobiliari, sia anche, come dire, nelle persone che ricercano la casa o devono venderla. Giuseppe Campisciano, è d'accordo? Lo avete notato anche voi come organizzazione professionale? Ma questo sicuramente, anche perché nel momento in cui calano i numeri del mercato rimangono in essere le richieste per esigenza, quindi chi necessariamente deve cambiare casa perché ha un'esigenza concreta, mentre spariscono quelli che sono gli acquisti per investimento o per una seconda casa piuttosto che per una casa da destinare alla vacanza o all'affitto. Quindi è chiaro che chi si presenta in cantiere è una persona che molto più concretamente, in cantiere o anche per un appartamento usato, è una persona che molto più concretamente ha la necessità di acquistare. Ha ragione Luca quando dice che la professionalità esce in questi momenti, perché solo quelli che si comportano, che lavorano meglio, resistono nei momenti di difficoltà. E riprendendo un attimo quello che diceva Righi prima, il cliente ha un modo semplicissimo per verificare che sta trattando con un agente immobiliare che quantomeno ha i requisiti: chiedere il tesserino di iscrizione alla Camera di Commercio. Ogni agente immobiliare ha un tesserino, basta che il cliente chieda che gli venga esibito questo tesserino. Noi abbiamo, assieme ai colleghi della FIAIP, fatto una battaglia per 4 anni in Regione Lombardia per alzare il corso di formazione per accesso al ruolo, quindi il corso obbligatorio abilitante, da 100 ore a 220. Finalmente ci siamo riusciti. Campisciano, anche noi giornalisti abbiamo un tesserino, siamo in tanti ad averlo, ma non è che questo, come dire, mette al riparo tutti i nostri lettori o ascoltatori da comportamenti deontologicamente impeccabili. È una prima verifica però. Ecco, certamente. Quindi già da qui cominciamo a mettere degli ostacoli, quindi cominciamo a mettere dei filtri. Io intanto voglio parlare con una persona che so che è iscritta, dopodiché valuterò questa persona, cercherò di capire se è una persona professionalmente preparata, se è in grado di garantire l'affare che io mi sto accingendo. A me quello che dà fastidio è il comportamento, perché chiaramente anche io ho comprato una casa con gli agenti immobiliari, ho avuto a che fare la faciloneria qualche volta, ma si venga, firmi subito il contratto. Ecco, il fatto di voler chiudere immediatamente, per esempio, la firma del mandato, Paolo Righi, alla prima visita in agenzia, anche lì voglio dire, si tratta anche di comportarsi in maniera un po', di rassicurare un po' il cliente, non facendogli immediatamente mettere una firma sul primo foglio che ha a disposizione. Mi sembra un atteggiamento corretto, che ne pensa? Quello che l'agente immobiliare deve fare è accompagnare il compratore in quello che è l'acquisto forse unico della propria vita, della propria casa di abitazione, e prima di firmare una proposta irrevocabile di acquisto o un atto obbligatorio, è necessario e occorrono alcuni adempimenti. Gli adempimenti sono quelli che diciamo prima nel servizio, assolutamente il conoscere il titolo di proprietà di chi è quell'appartamento, perché succedono anche cose abbastanza spiacevoli a volte. Con la nuova legge, la 122, bisogna verificare la corrispondenza delle planimetrie catastali con lo stato dei luoghi, perché siamo a rischio di nullità. E vi sono via via tanti altri adempimenti che l'agente immobiliare deve fare nella fase precontrattuale. Questo è molto importante per la tutela del consumatore, per la tutela del venditore in generale del mercato. Quindi approcciamo il consiglio che FIAI dà di approcciare l'agenzia immobiliare con fiducia, ma di controllare attentamente quelli che sono i passaggi di legge che non possono essere espunti da una trattativa. Ce n'è un altro peraltro che so che vi interesserà direttamente a partire dal prossimo anno. Adesso dobbiamo andare con la certificazione energetica dell'abitazione a rogito, invece dal prossimo anno sarà obbligatoria anche in fase di pubblicità, per cui anche l'agente immobiliare dovrà dire al venditore, anzi all'acquirente, di che tipo di classe energetica ha la casa alla quale è interessato. Certo, questo è entrerà in Gazzetta Ufficiale tra breve per tutta la Lombardia, anticipato, ma poi sarà anche a livello nazionale. Questo della trasparenza degli annunci immobiliari è un cavallo di battaglia che noi stiamo cercando di cavalcare con una proposta di legge, per cui anche sui portali immobiliari, su tutti gli annunci, oltre alla certificazione, debba anche essere ben scritto chi è che mette in vendita l'immobile, perché tante volte ci sono agenti immobiliari che si fingono privati e privati che si fingono agenti immobiliari. Quindi la chiarezza sui portali immobiliari, visto che internet è la nuova agorà, è di regolamentare un attimo anche quelle che sono le pubblicità, proprio per non cadere in truffe da parte del consumatore. Ma esiste una percentuale di mercato oppure la si può anche negoziare? No, la percentuale di mercato non c'è, perché l'antitrust ha vietato le tariffe per gli agenti immobiliari già da 10 anni. Ci sono delle agenzie che hanno dei costi fissi, quindi la trattativa non può scendere sotto determinate attività, però è buon uso, prima di dare un incarico, mettersi d'accordo su quello che sarà il compenso provvisionale in base all'attività poi che l'agente immobiliare farà e a tutto quello, perché pensate solo al costo della pubblicità che si prende in carico l'agente immobiliare, alle ispezioni che fa il catasto, le ispezioni che fa per le ipotecarie catastali, cioè c'è tutta un'attività che ha dei costi. Il 6% mi lascia un po' dubbioso, molto probabilmente è un 6% totale, il 3%. Ciò non toglie che un agente immobiliare incaricato di un'operazione particolare, per cui debba mettere in opera diciamo tutta una serie di investimenti al fine della vendita, possa concordare col proprio venditore o compratore un 6%, ma certo, bisognerebbe conoscere particolarmente magari problematica se c'è un immobile di un determinato tipo di valore, di caratteristiche. Giuseppe Campisciano invece mi spiega bene come deve essere assegnato il mandato di compravendita, se è sempre in esclusiva e per quale motivo un cliente non può chiedere a due agenzie di intermediare la propria abitazione da mettere in vendita. Allora, intanto vorrei fare un'ulteriore precisazione su quanto riguarda l'entità provvisionale, perché proprio in queste settimane presso la Camera di Commercio di Milano sono stati rivisti gli usi inerenti all'attività di intermediazione e nel modo specifico inerente al pagamento e alle percentuali pagate da compratori e venditori. Quindi c'è un riferimento istituzionale, che è quello della Camera di Commercio, che determina per scaglioni di valore quanto sono le provvigioni minime e massime normalmente chieste sul mercato. Quindi questo è un'informazione. Quelle che sono chieste, esatto, quindi è una sorta di monitoraggio, non un obbligo a chiedere quello. Diciamo che si fotografa la situazione di mercato. Okay. Sul mercato di Milano negli ultimi 5 anni la situazione provvisionale è stata questa. Quindi e ogni 5 anni viene fatta questa revisione proprio dalla Camera di Commercio. E mentre per quanto riguarda l'incarico, allora l'incarico si cerca e si chiede generalmente che venga dato in esclusiva, ma questo per una tranquillità operativa,